Il tempo se ne va. Su, tutti, tutti. Chiuse da secoli, le ore passano e noi siamo ancora qui per dirci tutto quello che abbiamo da dire. E intanto il tempo passa e se ne va, in tutti, tutti quanti quei difetti. E non hai fretta di scappare, ma aspetti che il tempo passi senza farci capire se era più facile rialzarsi e cadere. Lo sai che questa voglia di correre ci porterà lontani, o almeno qui. Dove arriveremo? Perché, come sai, ciò che conta non è la meta, ma la strada da percorrere. Continui a credere alle tue ambizioni che potrebbero avverarsi o farti soffrire, ma ormai che non temi più di cadere, sei riuscita a levarti le tue catene. Ammetti i giorni che va via troppo in fretta, perché domani sai già cosa ti aspetta. E poi arriva all'improvviso alle porte, il tempo che non bussa prende parte. Se ne va senza dirci se si fermerà, il tempo sai non perde tempo e corre. Il tempo se ne va, perché corre sopra le nostre città e non si chiede neanche se è ancora presto o è già tardi. Il tempo se ne va. Go! That's it.